24 mattino di Alessandro Milan. E ridono, cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani. Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Lives in a house, very big house in the country. L'Italia sta diventando un enorme campo profughi. In questo palazzo qualcuno disse viva Macron, viva la Francia, adesso Macron chiude i porti alle navi straniere. Qualcuno disse viva l'Austria che ha fermato i populisti e l'Austria mette l'esercito, i blindati ai confini con l'Italia. La smettiamo di farci invadere. Io dico che è una mattanza, io dico che è anche un genocidio e me ne assumo la responsabilità e dico anche che è un nuovo olocausto e dovremmo un po' vergognarci tutti di quello che sta succedendo nel nostro mare, nel mare Mediterraneo. Lampedusa è l'esemplificazione del fallimento dell'Europa. Lampedusa è la dimostrazione che l'Europa non esiste. Lampedusa è la dimostrazione che tutto il peso lo regge l'Italia. Senza considerare quello che sta succedendo al Brennero, e cioè assolutamente niente per quanto riguarda la emergenza. Al Brennero non passano migranti, la frontiera viene gestita con grande efficienza. Come dissi nel primo intervento sull'immigrazione in Parlamento, credo 4 anni fa, i cittadini africani devono stare a casa loro. Non devono stare a casa loro alla leghista, ma devono stare a casa loro perché quella è casa loro. Io ho lavorato in Congo e nessuno voleva scappare dal Congo. Alla fine ci hanno ragione un po' tutti, c'è ragione Di Battista, il mondo ideale è un mondo in cui ognuno sta bene in casa propria, dove ha la propria cultura, le proprie radici, no? Ha ragione anche Alfano, pensate, ha ragione anche Alfano a dire al Brennero non sta succedendo nulla, ragazzi, io ve l'ho detto ieri, tutti i giornali aprivano su una non notizia. Amico mio, ma chi vuoi prendere in giro? Appunto, ecco, infatti, caro Presidente De Luca, caro Vincenzino, mi rendo conto che messa così sembra di essere un po' democristiano. Ha ragione quella, ha ragione l'altra, ha ragione uno, ha ragione il secondo, ha ragione tutti. Però ha ragione anche Alfano, ragazzi, ma quali carri armati? Ieri i giornali, carri armati al Brennero. Poi l'Austria ha detto, ma no, ma nessun carro armato. Così, anche in Austria c'è quella politica per cui si devono dire delle cose per lanciare così. Bombe atomiche. No, che bombe atomiche, Vincenzo, calmo. Già, quelli abbiamo Kim Jong-un, la... missili termonucleari. Appunto. Quella sì è una cosa seria, quella sì è una cosa seria, che dall'America dicono solo il nostro autocontrollo impedisce la guerra. Babbarie, queste sono babbarie, no, sinceramente. La prima scrivere. Una biso, la seconda con due B. Babbarie, ecco, babbarie. Mitico babbarie. Signori! A Cernusco sul Naviglio ci sono 22 gradi e 0% di probabilità di pioggia. Un abbraccio anche a Salvatore. Mentre a San Pellegrino Terme 18 gradi, sereno, Marco il ciclista ci fa sapere questo. A Borgo Virgilio 23,3 gradi. Senti, mi vuoi fare un controllino su Borgo Virgilio, per favore, Lorenzo? Grazie. 16 gradi alla Aia, siamo nella capitale dell'Olanda. Francesca, un abbraccio a te, sole già sorto da un'ora, evviva l'Aia. Borgo Virgilio Mantova, giustamente, Virgilio. Come ieri l'Ariano Como, poi è in provincia di Roma, e va bene. Allora, a Savona 21 gradi, a Cadorago, Como, me lo scrivono. Ma tu lo sapevi, Cadorago, è dalle tue parti. 20 gradi sereno, Raffaele. A Izmir in Turchia, 23 gradi, salutiamo Gian Andrea da Izmir, Turchia, ci sta ascoltando in diretta, caro Umberto Brindani, direttorone di oggi, eccolo qua, come stai? Sto bene, buongiorno a tutti. Sei in vacanza o...? Non conosco quella parola. Ecco, vedo la copertina di oggi che ho qui. Ecco il lato che ci piace di Francesco Totti, che piace a tutti, sportivi e non, amanti del calcio e non, tifosi della Roma e non. Totti unisce. Ilari Blasi, signori, vabbè, niente. Allora, nel senso, in maniera virtuale, bellissima donna, ovviamente. Allora, insieme al nostro Umberto Brindani, direttore di oggi, abbiamo il quasi omonimo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che saluto. Buongiorno, ciao avvocato. Buongiorno. Tutto a posto? Bene, noi benissimo. Alle 6.35 le prime due cause del Codacons quotidiane sono partite nei confronti di chi? No, non sono partite ancora. Io stavo facendo una riflessione su Renzi, francamente. Su Renzi. Sulla società civile che ha deciso di candidare, avete letto, la società civile, la società è quella dell'allenatore della squadra di pallavolo, medico Burioni, quello che si vaccinerebbe pure i piedi se potesse. Smettila, e la povera ragazza è stata ferita dall'acido dal suo uomo, cioè siamo alla frutta veramente, cioè, di nuovo. Ma non è che ricandida, dici che ricandida poi. No, questi sono i prossimi rappresentanti candidabili secondo Renzi della società civile, cioè confonde la società civile, cioè che è quella che dovrebbe difendere i diritti, con vittime o protagonisti dello sport, cioè di nuovo la politica della cultura della televisione, no? Come quella che portò a eleggere poi Santoro e la Gruber, che poi si sono squagliata naturalmente al più presto. Ho capito, ma questa è una considerazione, non sono già le cause che fa niente, no, era una considerazione, era già un piccolo editoriale, una riflessione. Dai, allora apriamo il Parlamento, perché signori, ho una notizia che viene data da Libero a pagina 4, c'è un sondaggio, caro Umberto Brindani, non lo so se tu rientri nel 70% degli italiani che avrebbero risposto così, ma vi giuro, è pagina 4 di Libero, vi giuro, il 70% degli italiani sarebbe favorevole a un golpe militare. No, perché ridete? No, scusa, un colpo di Stato. Così, sondaggio di Libero, sei in Italia. Secondo me sarebbe favorevole a un commissariamento. Attenzione, se in Italia ci fosse un colpo di Stato militare a termine della durata di 18 mesi per ripristinare la democrazia, che non c'è evidentemente in Italia, secondo Libero, e attuare la Costituzione e l'interesse nazionale, come ti schiereresti? Il 71% risponde: appoggerei in modo attivo il governo militare. Ma dai, ma dove l'hanno fatto? Con chi l'hanno fatto questo sondaggio? Non lo so. Con gli ascoltatori dalla vostra parte? No, non lo so, dai. No, però attenzione, perché il concetto è un altro. Molti vorrebbero, con il disordine, la sporcizia, i problemi che ci sono nelle città, l'inquinamento, vorrebbero un commissariamento, perché si accorgono che i politici, sia pure eletti, perdono tempo, non fanno quello che la gente vorrebbe, cioè non riescono a interpretare i desideri dei cittadini. Il sito è scenarieconomici.it che ha posto questa domanda e non lo so chi ha risposto, non lo so. Però tu cosa faresti, Brindani, nel caso se dovessi operativamente appoggiare militarmente cioè tu dici se... No, dai, cosa vuol dire appoggiare attivamente? Non lo so. Ma in Italia non sono capaci i militari di fare questo. No, armarsi no, però, come dire, dire bravi militari, continuate così, non lo so. Vabbè, insomma, la marcia su Roma, insomma, torniamo un secolo fa. No, va bene, signori, dai, adesso si giocava un pochettino, evidentemente, anche se si scherza col fuoco. No, la verità è che gira e rigira, caro direttore, sempre di immigrati si parla. Allora, adesso attenzione, perché anche Bill Gates, che è un filantropo, tra le varie cose, fa anche, è un ricchissimo, sappiamo, fondatore di Microsoft, ma è anche un filantropo in Africa, e ha detto in un'intervista a un giornale tedesco che la generosità non fa poi così bene, perché proprio ha fatto delle considerazioni banali, dice: più si è generosi, più si incentivano le persone a pensare di poter partire per arrivare in mondi migliori. E bisognerebbe fermare questa cosa, lo ha detto Bill Gates, Brindani, mi ha colpito. Cioè... Sai, in tutta questa storia, in questo dramma che è in corso, perché poi le persone muoiono in mare, oltretutto, in tutta questa storia c'è un grande non detto, e cioè che tutto quello che è stato fatto e che viene fatto da almeno un paio d'anni a questa parte, la polemica sulle navi delle ONG che vanno a prendere i migranti a poche miglia dalla costa della Libia e quant'altro, è chiaro che, come dire, è il famoso flusso, viene in qualche misura incentivato. Quello che dice Bill Gates, che non ha problemi col politicamente corretto, è difficile da contestare, perché insomma lui dice: dobbiamo cercare di non motivare le persone a venire. Come si fa a dargli torto? Ma infatti, come dico, come si fa anche a dare torto quando Di Battista dice che se ne stiano in Africa, ma non alla leghista, cioè che se ne stiano in Africa, bene, cioè, questo sarebbe un mondo. Il problema è che questo mondo ideale non c'è. Sai, ci sono anche dichiarazioni... ho letto ieri una dichiarazione di Fabrice Leggeri, mi sembra che sia, portavoce di Frontex, che a proposito dei migranti economici, no? Quelli che Macron dice che non vuole. Che sono poveri, ma forse tanto poveri non sono se trovano i 3, 4, 5 mila dollari per venire in Europa. Sono frasi forti, sono cose difficili da dire e da accettare. Però forse dovremmo cominciare a ragionare anche così e non solo sui luoghi comuni. In tutto questo, a proposito di solidarietà, caro Rienzi, sai cosa fanno quelli di Airbnb? Hai presente? Hanno lanciato questa operazione di dire: diamo case gratis ai migranti. Ci sono persone che affittano in Airbnb a Milano, c'è una intervistata su Repubblica che dice: io do gratis la mia casa ai migranti. Non so se questa è la soluzione. È che dopo decenni di sfruttamento di questi paesi con il petrolio e le altre ricchezze, adesso si dice devono stare bene a casa loro. Cioè, le guerre ultime che sono state fatte proprio per il dominio sulle ricchezze di questi sottosuoli, del petrolio, di questi paesi. E dopo questo sfruttamento si fa pure l'ipocrisia di dire: ma facciamoli stare bene a casa loro. Ma perché, si è fatto qualcosa in questo senso fino ad oggi? Questa è la domanda che io pongo. Effettivamente anche questo non ha tutti i torti il nostro avvocato, dopo aver in qualche modo sfruttato un pochino mezzo continente, adesso diciamo stiano bene lì, lo so, sì, però la questione è poi: che cosa succede di concreto oggi? Brindani, che succede? Perché abbiamo un ex ministro, Ebba Bonino, che ha fatto capire, poi ha fatto un po' marcia indietro, che ce la siamo messi noi in questa situazione. Cioè, in cambio di soldi abbiamo accettato che l'Italia fosse l'unico corridoio disponibile dall'Africa all'Europa. In cambio di soldi pochi, però. Perché ho capito, ma anche se fossero tanti. Ieri l'Europa, credo giustamente Minniti, ha fatto notare che mentre alla Turchia sono stati dati 6 miliardi per tenersi qualcosa come 2 milioni di profughi, all'Italia sono stati concessi, non so quanto, 150 milioni per fare gli hotspot, eccetera. Insomma, il vero scandalo di tutta questa storia è la totale assenza di solidarietà europea. Insomma, questo è una cosa che fa ribollire il sangue nelle vene. La totale indifferenza dei nostri partner europei rispetto a quello che l'Italia sta facendo. Questo è un po' così. E infatti vedremo anche a Tallinn, secondo me, tante chiacchiere, posizioni strategiche, riposizionamento. Finalmente ha un direttore che mi può tutelare dicendo quello che succederà in maniera chiara. Presa in giro. Sarà una... per parlare bene. Per non essere troppo diretti. Torniamo ai nostri problemi anche. Per esempio. Per esempio. Noi, Dai, domani abbiamo due appuntamenti importanti. Attenzione, posso darli? Sì, cioè, avete visto che i vaccini scendono? Dopo la puffata tra Lorenzina e di Ricciardi, che ne volevano 12, poi 13, poi 14, adesso sono arrivati a 10 e poi scenderanno ancora, perché non ci sono, non si trovano nemmeno. Quindi domani noi siamo al Senato per un convegno scientifico sui vaccini che dica un po' di verità. Verità. E poi il pomeriggio siamo invece vicino all'auditorium per l'inquinamento, cioè facciamo pedalare le persone con delle biciclette che producono energia. Noi avremo ospite oggi alle 8:15 Messner, Reinhold Messner, che propone la ZTL sulle Dolomiti, cioè tornare a una montagna più... Ma che ridi, avvocato, è una cosa serissima. È una cosa seria. Ma certo, no, prevede di tornare alla montagna un po' lenta, la montagna un po' di un tempo, la montagna della... ma prima della montagna devi preoccupare delle grandi città. Noi abbiamo un inquinamento. È lui, Messner, sta sulle Dolomiti. Se le macchine, si prendesse la bicicletta, domani è questo, domani pomeriggio questo messaggio col ministro Galletti, col comune di Roma. Facciamo vedere tutto in bicicletta, la elettrica, quella che sostituirà i cavalli. Cioè, se ci facesse questo, diminuirebbe il 60% di inquinamento e respireremo tutti in bicicletta nelle buche di Roma. Dai, alle 6:45. Allora, io invece voglio ripartire tra un attimo dopo il traffico con la questione. Ancora adesso voglio chiedere a Brindani che ne pensa del contratto di Fabio Fazio. Finisce tutto alla Corte dei Conti, addirittura il contratto di Fabio Fazio in Rai. E tra l'altro, in Rai hanno trovato una cosa straordinaria, un escamotage fantastico. Lo racconto oggi il giornale per aggirare il tetto di 240.000 euro. Tra poco. E vai col traffico! Non è un problema, se mi dici dove abiti, vengo io a giocare a pallone, come succede sotto casa mia, fino alle 4 di notte, così tutte le mattine quando ti devi alzare alle 5 per venire alle 2:24, alla terza, quarta mattina ti dai malato, Milan, ti dai malato, o hai sparato a qualcuno che gioca a pallone sotto casa tua. Ciao Milan, volevo informarti che sei una specie protetta, l'ultimo dei democristiani. Un calcio in culo gli darei, altro che 6 milioni. Un calcio in culo e vai in campagna a raccogliere i pomodori. Fantozzi avrebbe votato il Movimento 5 Stelle? No, Fantozzi no. Votava o DC o se c'era o qualcos'altro, Comunione Liberazione. Beppe Grillo cosa avrebbe votato? Non Villaggio, ma il ragionier Fantozzi. Signori, ma dimmi, ma io adesso ho detto questa cosa del calcio perché hanno preso la multa a Malo, Vicenza, dei bambini di 5 anni, e questo mi paragona a uno che gioca alle 4 di notte sotto casa. Secondo te, caro fenomeno di ascoltatore, dei bambini giocano alle 4 di notte sotto casa? No, sono contro i divieti di far giocare nei parchi pubblici i bambini come in vari comuni. Ma tu ti rendi conto, cioè 150 euro di multa a un bambino di 5 anni? Perché ha giocato a calcio, ma io veramente non lo so. Vabbè, allora, questa storia dei soldi, vedi, ce l'aveva con Donnarumma, mi sa, caro interista Brindani, quello 6 milioni a calci in culo. No, è 1 milione di calci in culo al fratello. Al fratello, perché il povero fratello toccherà difenderlo, per questo cioè, è riuscito a strappare un contratto perché si chiama Donnarumma, ha 1 milione di euro l'anno. Che poverino, che colpa sua? No, trovo fantastico, soprattutto la storia del fratello in questa vicenda. Teniamo famiglia, tutti teniamo famiglia in Italia. Quanto Fazio, volevi sapere di Fazio? Sì, certo. Ma io ho letto questa notizia, cioè che Fazio in realtà non prende 11 milioni per 4 anni, ma ne prende 24. Sì, perché è anche produttore, perché la società di cui lui è socio sarà la nuova produttrice del programma. Esatto, e in più lui ha venduto alla Rai per 4 anni il format, che poi il format, giustamente qualcuno nota, è facciamo un'intervista a uno famoso, quindi non è un format particolarmente geniale. O due o tre interviste a due o tre famosi. O due o tre interviste, e l'ha venduta per 2 milioni e 400 mila euro. Quindi alla fine Fabio, oltre ai 28 miliardi che prese anni fa, senza aver fatto un minuto di trasmissione, da, come si chiamava, Tele Monte Carlo, TMC, Insomma, ragazzi, bisogna fargli i complimenti. Quasi infatti, come Donnarumma, come quasi se avesse avuto Raiola come agente, non Caschetto. Bravo, bravo, bravo Fazio. Infatti tutto l'esposto l'abbiamo fatto noi, eh? L'avete fatto voi? Alla Corte dei Conti, anche se Ansaldi ora si prende il mezzo. Attenzione, attenzione Ansaldi, furbettino. Qua guardate che non ci sfugge nulla. L'ha fatto, vi ha copiato. Siamo stati i primi a farlo, l'abbiamo fatto anche alla Procura della Repubblica, perché Francia ha praticamente fatto un piccolo ricatto, chiamiamo piccolo, dicendo: ah, se non fate così me ne vado. Ma quello si fa in tutte le trattative, cioè non è che è un ricatto. Ho capito, ma se quelli ti dicevano vai pure pubblico, ho capito, poi che fa per fare appunto un'intervista a una persona importante a cui pubblicizza un libro con pubblicità occulta, anche quella molto criticata. Adesso, anche sta roba, cioè adesso uno intervista uno per interesse giornalistico perché pubblica un libro e pubblicità occulta. Ma allora uno che deve fare? Pubblicizzano il libro, vanno perché lui li chiama quando scrivono un libro e ogni volta cultura, noi ci dobbiamo sentire questa pubblicità gratuita. Vabbè, ma ho capito, ma allora io cosa dovrei dire? Non dovrei citare la copertina di oggi? Eccola qua la copertina di oggi, diciamola, così ci accusano questa di pubblicità occulta. Questa pubblicità neanche troppo occulta, questa è occulta ad oggi. Oggi lo trovate in edicola, insomma, e potrei continuare per minuti, perché Umberto Bridano è una persona intelligente, lo invito al direttore di oggi, dovrò dire che è il direttore di oggi o no. Non è questo l'uso del servizio pubblico corretto, prima tutto perché la RAI prende un sacco di soldi di pubblicità, perché se pagassero la pubblicità dei libri incasserebbe un sacco di soldi, e poi perché è un modo occulto per fare pubblicità e invece il consumatore, il cittadino, il telespettatore non lo può capire. Vabbè, perché però pensa che sia una cosa normale a quest'ora del giorno, lo so, non è facile, ma io adesso voglio introdurre un argomento, per concludere un argomento molto serio, perché insomma, visto che Brindani prende carta e penna, fa l'editoriale su questo tema, cioè questo tema che è ancora ben sulle prime pagine dei giornali, il tema di Charlie Gard, questo piccolo bambino che poverino è affetto da una malattia gravissima, noi ce ne siamo occupati in Inghilterra, l'abbiamo detto, i tribunali dicono che bisogna staccare la spina perché soffre troppo. 3 gradi di giudizio, la Corte dei diritti umani, i genitori sono contrari, vogliono portarlo in Italia, al Bambin Gesù, hanno fatto appelli al Papa, a Trump. Tu oggi, Brindani, scrivi proprio, il titolo è Charlie deve morire, che è molto forte come titolo, chiaramente come tutti i titoli, impattante. Che significa questo Charlie deve morire? Ma significa che c'è un conflitto irrisolvibile tra, da un lato, la scienza e la medicina, che ci dicono delle cose incontrovertibili, e dall'altro la libertà di decidere per se stessi o, in questo caso, per il proprio figlio. Io, francamente, se dovessi trovarmi in una situazione così terribile, ma in cui ci fosse anche solo una speranza su un milione, io vorrei essere io a decidere per mio figlio, mentre questa libertà di decidere a questi genitori viene negata. Poi quindi voglio dire, tu critichi un po' l'idea che siano dei giudici, dei tribunali, dei medici ad avere l'ultima parola. No, i giudici, i tribunali e i medici fanno il loro lavoro, e qualcuno dice anche giustamente con tanto cuore, perché questi giudici inglesi non è che l'hanno presa, come dire, alla leggera. Quindi non critico quello. Io dico semplicemente che bisognerebbe trovare il modo di rispettare la libertà individuale, che è quella in questo caso dei genitori. In questo caso quella dei genitori, di poter accedere a questa cura, presunta cura sperimentale, cura che forse non servirà a nulla, però c'è. No, ma è chiaro. Però c'è. Su questo materia d'avvocato, caro Renzi. Ma sicuramente hanno ragione i genitori, cioè dopo che lo Stato poi non si preoccupa di tantissimi malati rari, non abbandona persone disabili a cui non riesce nemmeno a far prendere l'autobus, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e poi si preoccupa invece di eliminare questo bambino quando i genitori sono disponibili a fare i tentativi, a mantenerlo, eccetera eccetera. Cioè, quelli che non hanno la possibilità di essere mantenuti, aiutati da nessuno, li molla e li abbandona perché comunque sono meno malati. E questo qui che ha una famiglia che vuole fare dei tentativi, sì, sì, e li fa probabilmente anche a spese sue, adesso questo non lo so, ma credo. No, sì, avrà fatto una raccolta pubblica, hanno raccolto soldi per la solidarietà delle persone. Quando morirà, poverino, ma lasciate fare alla famiglia, è una cosa veramente assurda questa, ridicola. In ogni caso, no, è un caso che ancora c'è sui giornali, perché poi si diceva bisognava, come dire, applicare le sentenze e staccare la spina, come si dice brutalmente, poi in realtà per il momento Charlie è ancora lì. Io però vi devo salutare, vi ringrazio, il quasi omonimo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e Umberto Brindani, col numero in edicola di oggi che trovate oggi. Poi all'inmila e lì gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:19 minuti in punto. È lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Forza Peter Vescapè, ci siamo. Mancano 16, anzi con oggi 17 albe alle 5 per noi. Tu qui una settimana in più a lavorare. Sveglia pure alle 4, neanche alle 5 per te. Alle 4. Forza, andiamo, vai Peter. Io voglio la rassegna stampa di Alessandro Milan. Obelin, la pretendo. Eccola qua, giovedì 6 luglio, i titoli intanto, le aperture dei quotidiani sono diverse, non c'è una notizia che accomuna tutti i quotidiani, ma ognuno fa una propria scelta. Il Sole 24 Ore apre sulle regole dei nuovi voucher, più limiti alle aziende, pronta la circolare dell'INPS, attesa da piccole imprese e famiglie, una procedura che sarà operativa da lunedì e viene anticipata dal Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera invece ha un'intervista in prima pagina ad Angela Merkel alla vigilia del G20. Con Trump, accordi lontani, l'Europa sia unita. Questo è l'appello della cancelliera tedesca. Mentre per Repubblica sia la legge, ora la tortura è reato. La Stampa invece, l'ultima battaglia per Charlie, il bambino che purtroppo sta morendo in Inghilterra e secondo i tribunali dovrebbe essere staccata la spina. L'ultima battaglia per Charlie, la mamma chiama il bambin Gesù, l'ospedale, siete la nostra speranza, si parla delle mosse del Vaticano. Il Messaggero, e qui si entra nel campo migranti, navi, ONG al setaccio. Per il Giornale invece la fine del buonismo, la svolta di Bill Gates, basta immigrati. Il numero uno di Microsoft dice bisogna impedire che arrivino in Europa. Libero, perché l'Austria ha ragione, l'invasione non si ferma con l'accoglienza. E la verità, lo Ius Soli è come gli 80 euro, serve al PD per comprare voti, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano parla della vicenda Consip, con tutte le perquisizioni anche ai danni proprio del giornalista del Fatto Marco Lillo, sgominata la Fatto Connection, ovviamente il titolo molto autoironico per il Fatto Quotidiano. Per il Manifesto la tortura c'è, è il titolo di prima pagina, così Avvenire, contro la tortura mai troppo presto. Allora io però voglio iniziare dalle pagine dedicate alla vicenda di un personaggio di cui ci siamo occupati anche qui, io, Oscar Giannino, forse lo ricordate, 10 giorni fa, Salvatore Dodore Meloni, indipendentista sardo che era in carcere, uso il verbo al passato perché purtroppo ieri è morto, era in carcere e dal carcere diceva: io non riconosco lo Stato italiano, era in carcere per un reato fiscale, e mi lascerò morire per lo sciopero della fame prolungato. Farò come Bobby Sands, che combatté, poi venne eletto anche deputato quando era già in carcere, contro l'occupazione inglese per un lungo sciopero della fame, morì appunto nelle carceri inglesi. Ebbene, dopo questo sciopero della fame, dopo gli appelli, io personalmente poi ho intervistato qualche giorno dopo la moglie di Dodore Meloni, Giovanna Occheddu, che sulla Verità diceva: me lo stanno uccidendo nell'indifferenza totale, perché lui è determinato a portare avanti questa battaglia per l'indipendenza della Sardegna, dicendo: farò lo sciopero della fame, me lo uccidono e nessuno ne parla. Effettivamente nessuno ne ha parlato, incredibilmente, e ieri Dodore Meloni è morto per le conseguenze appunto di questo sciopero della fame. Tutti i giornali oggi ne parlano. Il Corriere della Sera dedica una pagina: sciopero della fame in cella, muore l'uomo che sognava la Sardegna indipendente. C'è anche un'intervista a Marcello Fois, scrittore barbaricino, che dice: mi sembra coerente questa fine col tipo di personaggio che è stato e mi sembra indecente questa fine per uno stato civile. A lui non stava simpatica l'Italia, all'Italia non stava simpatico lui, era un fastidio reciproco. E questo credo abbia prodotto una certa pedanteria nel modo di applicare le leggi. Viviamo in uno stato dove per evasione fiscale si fanno accordi milionari con super VIP che non fanno un giorno di galera. Presumo che Meloni avesse una pendenza inferiore a quella che ha Valentino Rossi col fisco. E se fosse un personaggio dei suoi romanzi, chiede Elvira Serra, e risponde lo scrittore sardo, gli darei il ruolo di quelle persone che anche per opposizione nella società servono. Si può dire tutto, ma non che non abbia concepito questa missione come una cosa da vivere in prima persona totalmente. La sua morte lo ha dimostrato e ci vuole rispetto. È meglio di un personaggio finto. La morte di Dottore Meloni, che nel 2008 fondò anche la Repubblica di Maluentu, occupando in maniera ovviamente simbolica, lui ne rivendicava proprio la proprietà, un isolotto, l'isolotto di Mal di Ventre, chiamandolo appunto, fondando lì la Repubblica di Maluentu. Era il sogno dell'indipendentismo, si può condividere o no questo sogno dell'indipendentismo sardo, ovviamente la maggior parte, immagino anche dei sardi, non lo condivideranno, non lo so nei modi, ma certo Dottore Meloni ha portato avanti la sua causa fino alla morte per sensibilizzare su questo tema. Lasciamo questa vicenda e veniamo a cose più legate a soldi, a numeri. Soldi intanto, non si placa la polemica per la vicenda dell'accordo, del contratto di Fabio Fazio in Rai. Ora nel mirino della Corte dei Conti, come raccontano i giornali, pagina 9, soprattutto su un esposto del esponente del PD, Michele Anzaldi. Tra l'altro fino a qualche settimana fa portavoce di Renzi, segretario della Vigilanza Rai. L'onorevole Anzaldi, Fazio ci costa, denuncia 70 milioni. Ogni giorno c'è una cifra che aumenta, c'è da dire. Sì, perché c'è questa società che produrrà di fatto Che Tempo Che Fa, e in questa nuova società Fazio è anche socio. Quindi il suo programma, per il quale lui prende già un contratto molto corposo dalla Rai, che ha fatto scalpore per alcuni, è prodotto da una società in cui lui è socio. E ora la Corte dei Conti, su richiesta di Anzaldi, si muove, i giudici contabili si muovono dopo l'esposto del deputato democratico. Tra l'altro sulla Rai c'è un'interessante retroscena di Paolo Bracalini sul giornale, pagina 13, racconta come si starebbe escogitando un modo per bypassare il tetto da 240.000 euro che tutti devono guadagnare nel pubblico e dunque anche i dipendenti Rai. La Rai assume col trucco, perché la furbata è questa: quali sono le categorie previste dal nuovo codice della RAI? Direttori artistici, coreografi, autori, registi, conduttori, ballerini, e poi c'è una voce: attrazioni. Attrazioni. Cosa vuol dire attrazioni? Ecco, secondo il giornale, basta offrire un generico intrattenimento, essere un'attrazione, essere un artista, una categoria un po' vaga come definizione. Peter Bescapè potrebbe essere, cioè è il nostro regista qui a 24 mattino, però potrebbe anche attrarre, potrebbe considerarsi artista. Ti prego, vai dal direttore del personale a dire: sono nella categoria attrazioni, vorrei quadruplicare il mio stipendio per questo. E quindi potrebbe essere il modo per escogitare il trucco in Rai, far rientrare tutti tra artisti nella categoria attrazioni per superare il tetto da 240.000 euro. A proposito di tetti superati, Repubblica oggi ha in prima pagina un'inchiesta dal titolo Il ritorno delle auto blu, no? Simbolo del potere, simbolo secondo il popolo proprio del privilegio insopportabile della casta cosiddetta. Ebbene, secondo Roberto Petrini, pagina 4 di Repubblica, nonostante gli annunci, c'è una inchiesta affidata a una società di data management Twig, guidata da Aldo Cristadoro, che ha elaborato e confrontato le cifre sulle auto blu per scoprire che nell'ultimo anno il risultato è che sono emerse 8.791 auto di servizio in più rispetto a prima. Ma come? Il taglio delle auto blu, cancellare le auto blu. C'è da dire che soprattutto nei ministeri si è tagliato molto, fa sapere Repubblica, ma sono i comuni, i luoghi dove le auto blu proliferano. Si moltiplicano man mano che i censimenti si fanno più approfonditi. C'è la posizione di testa nella classifica dei comuni che denunciano l'auto blu è Oristano. A Oristano ce ne sono 20, il che significa 63.2 ogni 100.000 abitanti in percentuale, in proporzione. Secondo seguono Trapani, poi Brindisi, Messina, Cosenza e Matera. In termini assoluti, in testa come auto di servizio c'è Torino, 294 auto, seguita da Roma, 146, Sassari, 106 auto. Paradossale alcuni casi di comuni, Roccasecca dei Volsci, provincia di Latina, 10 veicoli con autista, sarebbero su un'ipotetica platea di 100.000 abitanti 872,6 auto. E poi Roseto degli Abruzzi, Monopoli, Bari, a Bagheria, Palermo, comuni con più di 50 vetture a disposizione. C'è addirittura il caso di Pietracamela, Teramo, 271 abitanti, 4 auto di servizio, di cui 3 con autista. E che diamine, che fate a Pietracamela, in provincia di Teramo? Comunque, il ritorno delle auto blu è raccontato a pagina 4 di Repubblica. Mi ha colpito invece quello che pensano di fare a Venezia. Lo racconta oggi La Stampa, qui non c'entra il numero chiuso, ma c'è la tessera punti per i vigili. Ragazzi, è tutto vero, eh? Lo racconta Lorenzo Padovan da Venezia, prima pagina della Stampa, la tessera punti per i vigili di Venezia. Una tessera punti per premiare e premiarli in denaro i vigili urbani di Venezia, la polizia municipale. È all'interno di un progetto che punta a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini, cioè funziona così: il vigile urbano che, non so, sequestra una borsa contraffatta venduta ottiene 0,3 punti. Se sequestra uno di quegli oggetti che lanciano i venditori, sapete quando lanciano in aria quelle cose che volano, poi cadono per attrarre i bambini a comprarle, quello se lo sequestrano prendi poco, 0,005 punti. Se sequestrano accendini e bigiotteria finta, 0,01 punti. E così via. Il vigile urbano, nel far rispettare il decoro, nel far rispettare la legge, acquisisce punti e acquisisce poi stipendio. Acquisisce premi in denaro. Venezia, agenti municipali con tessera premio a punti. Ai vigili il bonus in denaro per i sequestri di merce contraffatta. Così vengono incentivati gli arresti di borseggiatori e le indicazioni ai turisti. C'è tutto gli obiettivi, il pattugliamento a piedi, 0,1 punti. Se beccate una prostituta e un cliente, 0,3 punti. 0,3. E così via. Non lo so, no, sono laico, non ho un'idea su questa cosa. Non so se sia un bene o non so se sia un male. Non lo so. Mi incuriosisce molto. Mentre che succede? Nel paese dei concorsi, spesso truccati, il premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata va a Paolo Isaia, sul Secolo XIX, che racconta della procura che ha indagato 5 persone per abuso di ufficio e corruzione per il concorsone Rivieracqua a Imperia. Una candidata era in collegamento audio con un familiare a casa che le forniva le risposte al concorsone, grazie all'auricolare. Altri sapevano già le risposte grazie alle soffiate di amici politici o dirigenti pubblici che avevano fornito con largo anticipo l'elenco dei quesiti. Questi gli scenari dell'ennesimo concorsone all'italiana. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, sei talmente avanti che se ti giri indietro vedi il futuro. Mamma mia ragazzi, alle 7:37 minuti. Allora, l'immigrazione è un tema ancora in primo piano, o come si diceva ieri, si è scherzata la questione del Brennero, ma ieri tutti i titoli dei giornali, i carri armati al Brennero, l'invasione, il Panzer, la Panzer Division, ma ci rendiamo conto? Ovviamente è stato un annuncio che nel giro di 24 ore si è smontato, come panna montata o come maionese impazzita, più che altro. Si è sgonfiato e l'Austria fa dietro front, nessun blindato al Brennero, eccetera. Comunque tutti guardano quello che succederà oggi a Tallinn, dove Minniti, dopo aver fatto l'informativa al Senato, andrà cercando forse soldi, cercando di avere un appoggio dall'Europa. Raccontano i giornali di un'Italia un po' isolata, ci sono dei blocchi di paesi che certamente non vogliono appoggiare le nostre richieste. Non credo che ne verrà fuori qualcosa di estremamente risolutivo per il problema migranti. Certo, poi c'è anche la polemica che per qualche ora ieri è montata, perché l'ex ministro Emma Bonino ha detto in pratica a Radio Radicale: il fatto che nel 2014-2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, la Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, lo abbiamo chiesto noi. L'accordo lo abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino. E il giornale mette a pagina 2: così il governo Renzi ha dato il via libera alla grande invasione. L'ex ministro Bonino si riferisce al fatto che dopo la chiusura di Mare Nostrum, voluta da Letta, il commissario europeo per gli affari interni Malmström dichiarò la sostituzione della stessa con Triton di Frontex, missione di pattugliamento. Il fatto è che con Triton si spiega come con questa operazione si autorizzavano 15 stati europei a pattugliare il Mediterraneo. Queste navi portano i migranti solo in Italia. Ed è proprio questo il punto, perché poi Emma Bonino in pratica ha detto: non ho detto niente di sconvolgente, non ho detto niente di nuovo, ma la polemica è servita. Si viaggia per polemiche, si viaggia anche per dichiarazioni. Una dichiarazione che certo oggi trova spazio sui giornali è quella di Bill Gates. Bill Gates, fondatore di Microsoft, milionario, forse anche miliardario, ma anche filantropo. Tanti sono i suoi progetti proprio sull'Africa. E ieri, parlando col giornale tedesco Welten Sonntag, che cosa ha detto Bill Gates? Ha detto: rendere difficili gli ingressi in Europa per gli immigrati dall'Africa. Questa dovrebbe essere la nuova soluzione. Il consiglio di Bill Gates all'Unione Europea: rendere difficili gli ingressi. Titolo di pagina 9 del Corriere della Sera, viene annunciata questa svolta dell'imprenditore che dice: mostrarsi generosi induce più persone a lasciare l'Africa. Da una parte tu puoi mostrare generosità e accogliere i rifugiati, ma più sei generoso, più il mondo se ne accorgerà, dice Bill Gates, e alla fine questo motiverà più persone a lasciare l'Africa. L'Europa deve rendere più difficile per gli africani raggiungere il continente attraverso le attuali rotte di passaggio. E ancora, la tumultuosa crescita demografica in Africa diventerà un'enorme pressione migratoria sull'Europa, a meno che gli stati decidano di aumentare in modo consistente gli aiuti allo sviluppo alle terre d'oltremare. Questa sembra dunque la soluzione prospettata da Bill Gates: aiutarli lì, come si suol dire, in questa frase che può apparire brutale, ma che non deve apparire brutale, deve essere equa, aiutarli lì, anche perché chiunque nasca in un paese ambisce a rimanere in quel paese dove ha la famiglia, la cultura, le radici, però deve farlo in maniera dignitosa, ovviamente. In tutto, visto le polemiche, c'è quella innescata dal colosso degli affitti mordi e fuggi Airbnb, che ha detto: in Italia possibilità di dare case tramite il portale Airbnb ai migranti. Più di 100 milanesi hanno pubblicato un annuncio su Airbnb, e viene intervistata da Repubblica Lucia Chessa, pensionata, 65 anni: ho deciso di dare la mia casa gratis ai rifugiati per aiutarli a trovare un futuro. Sarà l'associazione Refugees Welcome Italia, insieme alla comunità Sant'Egidio, a fare una sorta di check-in nelle case degli host, E questa pensionata spiega così: fa parte della mia cultura, ho sempre pensato che il confronto con gli altri e la conoscenza delle persone sia prima di tutto un motivo di crescita personale, sono convinta che sarà un'esperienza particolare, mi arricchirà molto a livello umano. Ecco, a livello umano, perché questa pensionata dice esplicitamente: ospiterò i rifugiati in casa mia, come già faccio con gli ospiti classici, gratuitamente, non guadagnerò nulla economicamente, ma guadagnerò a livello umano. E anche qui immagino le polemiche. Va bene, dai, meno male che c'è anche la casa di Mauro Meazza a disposizione, e lì si tratta di un bel atticone stile Bertone che può ospitare decine e decine di persone. Caro Mauro, buongiorno. Ma buongiorno, ma sicuramente, ma perché l'attico? Guarda che ho cambiato, adesso ho un castello vero e proprio. Ecco, dove paghi l'IMU. No, perché ho trovato anche una scappatoia da un qualche circolare, di quelle che leggo religiosamente, esatto. Queste pagine enorme tributi. Tu sai le cose e le utilizzi. Cosa certo. Le leggo a fare? Esatto. No. No, a proposito di casa, però, capiti a fagiolo, come si dice, perché oggi con il sole 24 ore, essendo giovedì, c'è casa 24. Quindi, ad esempio, potrai apprendere che c'è un aumento notevole degli agriturismi. Sai, sono sempre più le persone che decidono di aprire un agriturismo. Leggi da casa 24 di oggi l'articolo di apertura. Ma soprattutto, guarda, oggi dobbiamo fare un lavoro, caro Alessandro. Dobbiamo trovare un nome per il nuovo contratto di prestazione occasionale. Hai visto che sul Sole 24 Ore parliamo, anticipiamo le regole dei nuovi voucher. Non si chiamano più voucher. Allora, quello che useranno le famiglie si chiamerà Presto. Presto. Che sta per prestazione temporanea occasionale. Adesso ci vorrebbe il nome per quello che useranno le imprese. Puoi trovare tutto questo descritto nelle pagine iniziali del Sole 24 Ore di oggi. Fate presto, ma non so se si può utilizzare un copro, contratto di prestazione occasionale. Com'è, scusa? Copro potrebbe essere una sigla, oppure anche CPO, che forse è più una cosa neutra. Vabbè. Comunque, tra le altre cose che ti voglio segnalare e ti consiglierei vivamente di leggere, che succede al Monte Paschi di Siena adesso? Allora, c'è una pagina da staccare e conservare di Gianni Trovati, che ti dice quali sono le prossime tappe di questo percorso del Monte Paschi. E poi, da meditazione invece, caro mio, dovresti raggiungere le pagine di commenti, perché lì anticipiamo i risultati dei test invalsi in tutta Italia. Sì. Il sud, il nord, chi va meglio, chi va peggio e così via. Naturalmente non ti devi dimenticare pagine norme tributi, dove parliamo ancora di split payment tra le altre cose, e tu me lo stai trascurando. Ma soprattutto ti informiamo che la Cassazione ha sostanzialmente aperto ai danni punitivi. Ora tu mi immagino che, come dire, faticherai a comprendere la rilevanza di questa notizia, ma forse no. Però ti assicuro che tutti gli illegali in ascolto invece saranno molto interessati ad andare a leggere ciò che dice Giovanni Negri. Non è vero che lo vogliono chiamare copro, dai. No, è una invenzione mia. Invece ecco, Presto è vero, però. Però Presto è vero. Va bene, Presto. Vorrei precisare che Presto è vero. È l'altro nome che ci manca. Non so se vuoi fare un concorso tra gli ascoltatori. Ma non lo so, vediamo un po'. Vedi se arriva qualcosa di interessante e poi me lo segnali, ce lo segnali. Adesso mi hai distratto, perché volevo dirti di un'altra sentenza, invece, questa volta un giudice di primo grado a Perugia, che ha detto che se tra gli ex c'è dissidio sulla scuola privata o pubblica dove iscrivere il figlio, il giudice deve scegliere la scuola pubblica. Ecco, è così. Leggi particolari su norme e tributi di oggi, e poi, infine, ma non per questo meno importante, ti segnalo da Finanza e Mercati che la Volvo annuncia una svolta: produrrà solo auto ibride ed elettriche. E come mai te ne parlo proprio adesso? Chissà. Forse perché è la giornata mondiale del bacio. È vero, e questo non l'avevi ancora forse ricordato. Giornata mondiale del bacio. Ti do questa indicazione, se vuoi anche dirlo alle colleghe presenti, non lo so. Vedi un po' tu? No, te lo dico, ti parlo di Volvo, perché naturalmente ora è il momento. Ciao Alino, siamo Bianca, Sofia e Costanza e tutte le mattine, ma dico tutte le mattine, ascoltiamo la lettura dei giornali a gratis. Buona giornata, siete fantastici, tu e tutto lo staff. Ciao! Vabbè, Bianca, Sofia e Costanza, però secondo me dal giudicare dall'età, la voce... Adesso sono un po' più in vacanza, non lo so se si mettono ad ascoltare la rassegna stampa, ma noi vogliamo pensare di sì, vi mandiamo un grosso abbraccio. Anzi, visto che è la giornata mondiale del bacio, vi mandiamo 3 baci. Allora, la tortura è reato, pene fino a 12 anni, questa è stata l'approvazione alla Camera con molti dissensi, cioè una legge approvata e che di fatto sia da destra sia da sinistra è stata criticata. 198 i voti a favore. Perché è criticata da tutti? Perché a destra dicono è un attacco alle forze dell'ordine, è introdotto il reato di tortura per chi commette questo reato e chi indossa la divisa possono andare pene da 4 ai 12 anni, ma anche i semplici cittadini da 4 a 10 anni. Da sinistra invece si chiedeva un reato ad hoc per le forze dell'ordine, che non c'è, quindi scontenti a sinistra, scontenti a destra. Un altro punto che è stato smussato riguarda l'asticella sotto la quale il reato non scatta. Minacce e violenze, infatti, devono essere reiterate e produrre acute sofferenze e un danno verificabile. Questo ha suscitato le critiche del senatore Luigi Manconi, del PD, promotore della legge. In ogni caso, è legge alla Camera ed ecco allora che... ci sono le polemiche, anche perché qualche dissenso c'è, ripeto, sia da sinistra che da destra. C'è stata anche una giornata importante, è stata una giornata importante dal punto di vista giudiziario, perché il caso Consip ha visto intanto la vicenda di Vannoni, ex amministratore delegato, quello che è stato fatto fuori da Consip e che è indagato. Vannoni, l'amico di Matteo, indagato con l'accusa di favoreggiamento. Questa volta nel registro degli indagati finisce Filippo Vannoni, renzianissimo presidente di Publiacqua Firenze, fa sapere il Fatto Quotidiano. Fu lui a dichiarare dinanzi ai PM di Napoli di aver saputo dell'indagine su Consip dall'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oggi ministro dello sport, Luca Lotti, e in modo molto più blando lasciò intendere che della vicenda Consip in qualche modo si era venuta a conoscenza perfino l'ex premier Renzi. Interrogato ieri dalla procura di Roma, Vannoni ha però sfumato la versione dei precedenti interrogatori, ritrattando in parte alcune dichiarazioni su Lotti. Eccola qua, la retromarcia di Vannoni. In procura ritratta le accuse a Lotti. Tra l'altro, Giovanni Bianconi fa sapere i magistrati vogliono chiarire e capire se ha percepito una pressione che lo spinsero a dire il falso, oppure dice il falso oggi dopo aver letto sui giornali le ferme sdegnate smentite di Lotti, ministro Lotti, il quale sostiene di essere arrivato a dirgli a Palazzo Chigi: non ti do una testata, solo in rispetto del luogo in cui siamo. Questo è lo scenario, insomma. Consip, tra l'altro, nello scenario Consip è stato anche perquisita casa di Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano che si è occupato dell'inchiesta, e denuncia sul Corriere della Sera: hanno perquisito anche mio padre di 96 anni, hanno perquisito me e non hanno perquisito Tiziano Renzi, cioè il papà di Matteo Renzi, che invece è indagato. Marco Lillo dice: addirittura sono entrati, per carità, i finanzieri, con massimo rispetto, nella stanza di mio padre, 96 anni, sono stati gentili, professionali, ma noto appunto una disparità tra la famiglia Lillo e la famiglia Renzi. La vicenda è quella anche dell'inchiesta che ha portato anche tra gli indagati la giornalista Rai, la conduttrice di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli. Allora, questo per quel che riguarda la giornata giudiziaria. Per quel che riguarda l'estero, vi devo segnalare questa lunga intervista, pagina 2-3 del Corriere della Sera, ad Angela Merkel. È un'intervista interessante, importante, scenari internazionali, parla del rapporto con l'America, con Trump, con Trump non va bene, accordi lontani, dice Angela Merkel, che introduce il G20, il mio G20, per rifondare un ordine globale giusto. Siamo distanti dagli Stati Uniti, l'Europa deve ritrovare slancio. Questo è il senso dell'intervista di Giovanni Di Lorenzo e Bernd Ulrich alla cancelliera tedesca Angela Merkel, che trovate sul Corriere della Sera a pagina 2 e 3. I rapporti con la Corea del Nord sono sempre rapporti molto molto complicati. Dall'America fanno sapere: non c'è la guerra solo per la nostra capacità di autocontrollo, perché effettivamente le provocazioni sono sempre di più, e si parla di 20 di guerra, anche se è una cosa di cui si parla da tempo. C'è anche un intervento al ministro Franceschini, che boccia i ticket per la questione delle città chiuse. Annoso problema che si ripropone ogni estate, ne discuteremo anche dalle 9 alle 9.30, torneremo su questo tema. Però vuole scaglionare gli ingressi per Roma e per le città d'arte. Questa è la proposta del ministro Franceschini: no ai ticket, ma scaglionare gli ingressi. Va bene, dai, siamo all'ultimo articolo. Voglio segnalarne due. No, uno, non c'è tempo. La carta costa, ma dov'è? Ah, eccolo qua, sì, eccolo qua, l'articolo più inutile che trovate sui giornali, adesso non lo faremo. Leonard Berberi racconta che per via degli smartphone diventeremo sempre più ingobbiti, lenti e sbilenchi. Ecco come cambierà il nostro modo di incedere tutti i gobbi storti per gli smartphone. Ma chi se ne frega!